Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. È notizia, credo, recente, non vorrei dire una cavolata, ma ho saputo che, mi pare, la Delta, la compagnia aerea, adesso accetta i cani in cabina. È vero, aveva ragione Veronica Pivetti. Allora, buongiorno, buona domenica a tutti. Ecco, adesso buongiorno. Sta... Amore, sveglia, su. Ho dormito solo 4 ore stanotte, va bene, non è che possiamo... Allora, notizia importante. Scusa, non eri con me. Dire che non hai dormito, hai dormito solo 4 ore, viene spontanea la domanda. Per esempio, che cosa hai fatto le altre 3 ore che avresti dovuto dormire? Ma passiamo alla notizia del giorno. Certo, no, la notizia del giorno, dopo facciamo i conti a casa. La notizia del giorno era che i cani non viaggeranno più in stiva, è verissimo. La Delta ha deciso che potranno restare in cabina a fianco del proprio padrone, perché la nuova norma purtroppo arriva dopo ripetuti incidenti che hanno portato alla morte di diversi animali. Insomma, diciamo che questa cosa qui, quindi, vedi, questa è una cosa che io ho sentito tante volte, però effettivamente viene confermata, no? Cioè, non è soltanto una leggenda. A volte capita, no, che si dimenticano o di pressurizzare la cabina o la temperatura scende troppo in fretta, insomma. No, infatti, se uno vuole vedere benissimo la notizia sul TGcom24 la può trovare, perché la Delta ha deciso di fare un velivolo che prevede particolari standard e misure per il trasporto degli animali. Quindi, un aereo apposta, sì, cioè della Delta. Io ho visto anche la fotografia, cioè tu vedi le seggiolini dei passeggeri con a fianco, tipo, c'era un levriero afghano, sembrava comunque un cane grosso, quindi uno può viaggiare, perché loro dicono, noi della Delta, dice, molti di noi in Delta sono amanti degli animali, sappiamo che sono importanti membri delle famiglie, ha dichiarato Bill Lynch, che è il senior vicepresidente della compagnia. Ogni singolo vettore ha un proprio protocollo. Quindi loro dice, siccome ogni compagnia può decidere, per esempio l'Italia dice che tu puoi portare in cabina con te un animale, un cane, che compreso di trasportino non superi i 10 kg, però oltre 10 kg purtroppo devono stare in stiva. Quindi... Invece qua no. Ora, per chi come me non prende così tanti aerei, la Delta è una compagnia italiana? No, è americana. È americana. Quindi? C'era già, mi sembra, la Pet Airways. Negli Stati Uniti, che già dedicata a questo. Sì, esatto. Adesso la Delta si è fatta ancora più forte. Allora, di le questo. Compagnie aeree lungimiranti comprenderanno come questo sia il business del futuro, perché oggi i proprietari tendono ad andare in vacanza con i propri animali, a volersi spostare sempre con i propri animali, quindi a non volerli più lasciare nelle pensioni con i box, no, queste cose, sì, qui. Quindi o trovano qualcuno di estrema fiducia oppure lo portano con sé, sì. Anche perché, diciamocelo, una vacanza con il cane comunque ha il suo perché. Eh sì. E allora, se ci si sposta con il proprio cane, ha voglia a prendere voli, sai quanta gente prenderebbe il volo col cane grande per andare in America, per andare... Ma poi io tenderei a fare un biglietto con le compagnie che ci danno questa possibilità, anche se dovessi viaggiare da solo, io premierei quelle compagnie lì. Anch'io, la metà delle famiglie italiane e animali, quindi compagnie aeree, svegliatevi. Vi prego, sì, una compagnia, vi facciamo da sponsor io e Angelo. Senti, testimonial. Benissimo, grande la Delta, grande applauso. Sento un po' Nina Zilli quando alzo le braccia. Nina Zilli a Italia's Got Talent. Sono sempre le braccia in alto. Comunque, fantastico Italia's Got Talent. Chiusa sta parentesi, ci abbiamo ancora un ospite oggi qua con noi. Eh sì, è tornata a trovarci Mara Di Noia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, medico veterinario, esperto in nutrizione. In particolare nutrizione vegana. Nutrizione a base vegetale. Naturale. Sì, perché Angelo Vegan indica nel modo specifico che non si mangiano cibi di origine animale. Questo non vuol dire che l'alimentazione che esclude il cibo animale sia sano. Quindi un'alimentazione deve essere varia, equilibrata e costruita in modo corretto. Per quello io uso il termine alimentazione naturale a base vegetale, perché vuol dire combinare e conoscere l'alimento vegetale in modo tale da creare una dieta equilibrata per tutti. A seconda anche delle specie animali, esatto. Giusto? Volevo chiederti, l'altra volta parlavamo di cucinare, di fare lo stesso cibo per noi e per il cane, ma... Sì. Che differenza c'è nello specifico? Perché il cane ha necessità diverse, no? Come bilanciamento, no? O no? Allora, forse no. Forse no, nel forse senso no. Non vorrei sollevare un vespaio, ma in questo ambito noi medici veterinari Partiamo da un dato empirico, in questo caso partiamo da un dato empirico, cioè gli studi sono stati fatti dopo. Abbiamo constatato che con un'alimentazione a base vegetale o nelle famiglie che sono abituate ad esempio ad aggiungere il pesce o altri cibi di origine animale, ma sempre nell'ambito di un'alimentazione semplice casalinga, e io mi occupo di alimentazione vegetale, il cane o gli animali che vengono alimentati con delle ricette, con un'alimentazione con delle ricette molto semplici, dove si utilizzano quei sette ingredienti di cui parlavamo l'altra volta, come le sette note, dico sempre io, le sette note che combinate insieme ci danno la possibilità di creare, come la musica, ricette infinite e combinazioni infinite. Questo per dare il panorama di quello che si può fare con sette categorie di alimenti. Questi animali stanno bene. Allora, che cosa ha fatto un gruppo? Ha iniziato a pensare un gruppo di veterinari che inizia a ragionare in modo differente. Andare a vedere, stanno bene, ma andiamo a vedere qual è questo schema alimentare. Questo schema alimentare molto spesso è quello dei nostri bambini piccoli. 3, 4, 5 anni. Tu hai detto, all'inizio hai detto, questo è una ricerca olistica? È sorta, diciamo, l'esigenza da parte di gruppi di veterinari che pensano in modo differente di andare a valutare come mai questi animali alimentati in modo semplice e vegetale stanno bene. Beh, ovvio. Cioè, siamo partiti dal dato empirico. Dato empirico. Allora, dopo io ti chiedo che cos'è il dato empirico. Partire dall'esperienza. Tu hai l'esperienza del cane che sta bene e vai a vedere. E ti chiedi perché. Bene, adesso chiediamoci perché c'è traffico sulle strade. Se c'è. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh, e siamo di nuovo in linea. Ci abbiamo qui il nostro ospite Mara Di Noia. Però adesso volevamo parlarvi di una cosa alla quale teniamo tanto. Tempo fa, qualche mese fa, settimana fa sicuramente, abbiamo parlato con Giuseppe Fatone, che è un ragazzo che si era preso a cura un canile a Cerignola, che aveva delle condizioni abbastanza veramente pessime e disastrose. Assieme al sindaco e alla ASL di Cerignola, che adesso vi presenterò tutti quanti, sono riusciti a fare delle grandi cose. Quindi questo volevamo parlarvene, proprio perché quando ci si mette tutti assieme a collaborare, a migliorare le cose belle vengono fuori, si possono migliorare le condizioni, in questo caso di cani randagi e di questo canile. Allora, adesso siamo in linea con il sindaco Francesco Metta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Contemporaneamente ci sente Giuseppe Fatone. Ci sei? Sì. L'educatore cinofilo. Sì, ci sono. L'educatore cinofilo. E siamo in linea anche col medico veterinario della ASL, Michele Buttiglione. Buongiorno a lei. Buongiorno. Fantastico, facciamo questa telefonata a 5. Vediamo se ci riusciamo senza accavallarci. Allora, sindaco, siete riusciti a fare delle belle cose in questo canile, giusto? Sì, assolutamente. Ne siamo particolarmente compiaciuti, ne siamo orgogliosi. Le cose sono molto migliorate e andiamo incontro a ulteriori miglioramenti. Bene, quindi io spero che altri sindaci casomai la chiamino per chiedere, per confrontarsi. Un modello, ci vuole un modello. Sì, e capire. Bravissimo. Che cosa ha messo del suo, perché questo... La ricetta è semplice, la buona volontà e la determinazione della pubblica amministrazione e degli splendidi volontari che ci hanno ovviamente aiutato e sono stati assolutamente determinati. Infatti, quindi questo è un grande risultato. Allora, Giuseppe, com'era la condizione all'epoca e com'è cambiata adesso? Allora, all'epoca la situazione era veramente a dir poco agghiacciante. Topi ovunque. No, io ricordo cuccioli mangiati dai topi. Sì, cuccioli mangiati dai topi, situazioni sanitarie dal punto di vista proprio della salute dei cani pari a zero, se non qualcosa anche di meno. La situazione era prima... un teatrino praticamente di cani. Degrado. Che forse qualcosina di più. I cani che praticamente vivevano situazioni apatiche, quasi molto vicine alla depressione. Infatti abbiamo avuto serie difficoltà inizialmente a far uscire i cani dai propri box, perché cani che probabilmente per anni non sono mai usciti dai propri box. Immagina, in questo momento metti una persona nel suo box doccia e lasciala vivere così, no? per anni. Senti, quanti cani c'erano all'epoca e quanti ora? Allora, all'epoca erano 287, adesso siamo all'incirca sui 170-170. Vabbè, ci vuole quello per festeggiare, sì. bravi. È un risultato che ovviamente è stato raggiunto attraverso comunque molti recuperi comportamentali, soprattutto dalla buona volontà. Di gente che ha deciso di adottare anche cani con problematiche comportamentali. Quindi pitbull ex combattenti sono usciti dal canile e stanno tutt'oggi continuando comunque percorsi con educatori del posto. Cani che prima praticamente non uscivano dal proprio box. Io in questo momento mi trovo diciamo lungo il corridoio del canile, sì, dove sì. escono i cani, e come potete sentire si sente qualche abbaio sporadicamente. I cani in questo momento hanno finito di mangiare, tutti quanti mangiano insieme, escono tutti quanti insieme, maschi, femmine, cuccioli, adulti, e in questo momento si stanno godendo. Infatti ho visto su Facebook una foto che riprendeva questi cani fuori dai loro box, che mangiavano tutti quanti assieme, in una propria ciotola, girovagando un po' l'uno con l'altro, pacificamente. Certo, e quindi non tutti i cani ovviamente. Immagino. Ci sono cani che purtroppo hanno patito la fame per chissà quanto tempo, perché ricordiamo che all'inizio venivano posizionati dei contenitori, dei vasi, diciamo, chiamiamoli vasi, quelli tipo della raccolta delle olive, dove praticamente venivano svuotati i sacchi di crocchette e poi i cani mangiavano, erano a posto per 2-3 giorni. Quindi il cane più possessivo sul cibo mangiava di più, c'era gli altri, certo. Esatto. Allora io volevo anche ringraziare, questo vedi è uno dei classici esempi dove l'unione fa la forza, perché qui c'è l'aiuto del sindaco, esatto, quindi l'autorità, esatto, l'aiuto dei volontari, di te come educatore cinofilo che ti presti a seguire questi cani, e l'aiuto anche delle persone, della gente comune che decide di adottare un cane, come dicevi, anche magari che con delle problematiche, e l'aiuto anche di Michele Buttiglione, che è il responsabile dell'unità antirandagismo dell'ASL di Cerignola. Michele, ci sente? Sì, la sto ascoltando. Io devo ringraziare entrambe le persone, sia il sindaco che ha dato la massima disponibilità subito dopo il suo insediamento come sindaco. È stato individuato un nuovo terreno, questo chiaramente ne parlerà il sindaco, dove verranno trasferiti tutti i cani e realizzato un nuovo canile fatto con tutti i crisma. Bellissimo. Perché il nuovo canile non dovrà essere un luogo di stallo dei cani, ma un luogo dove i cani dovranno interagire con le persone, e grazie a questo verranno adottati. Vorrei soltanto aggiungere che le adozioni si sono sospese in questo periodo, mm-hmm, perché da accertamenti effettuati è uscita fuori della morte di alcuni cani, sono stati fatti degli accertamenti sia autoptici che sierologici, mm-hmm, una malattia che viene chiamata la leptospirosi. Sì, quella dei topi. È una malattia soggetta a denuncia, e quindi è stata emessa una ordinanza sindacale di blocco sia delle entrate che delle uscite dei cani. Attualmente i cani quindi non possono essere adottati, non possono uscire dal canile, ma si stanno facendo tutti gli accertamenti, si sta facendo la terapia a tutti i cani, verranno vaccinati tutti i cani, e una volta completate tutte le prove, le prassi, al sindaco la revoca dell'ordinanza di... Benissimo, mi sembra che facciate le cose con estrema attenzione. Quindi spero che nel prossimo futuro riesco a chiedere al sindaco la revoca dell'ordinanza. Comunque, per questo motivo si sono fermate le adozioni, altrimenti sì, sarebbero... È... È giusto appunto un pochino di zelo e di attenzione che serve ovviamente in questo. Io sono particolarmente contenta di questo e sono particolarmente felice che tutto ciò accada nella mia amata Puglia e amata anche di Angelo, perché lui è nato proprio a Bari, io sono di origini foggiane da parte di papà, e purtroppo perché purtroppo la Puglia detiene un primato di randagismo e di maltrattamento agli animali che è abbastanza alto in tutta Italia, quindi sentire proprio voi che vi siete messi, che poi aiutandosi la fatica non è solamente di uno, no? Ma diventa tutto facile per tutti, perché se c'è la ASL come in questo caso che dà il suo supporto, l'appoggio e la disponibilità, il sindaco la sua e i volontari come Giuseppe. Ma vedi, 110, Giuseppe mi sembra 110 cani, no? Di aver capito, in pochi mesi adottati. Super giù, sì, in linea di massima. 280, 170. Ci sono stati cani che purtroppo, come anticipava prima il dottor Buttiglione, sono deceduti. Non ci sono più, perché sempre tornando al discorso che prima non venivano effettuate proprio terapie anche per un semplice graffietto sulla zampa del cane, non veniva effettuato. Certo. Quindi abbiamo trovato leptospirosi, abbiamo trovato la leishmaniosi, l'erlichia, tutte le cose che comunque adesso stiamo curando. Addirittura ci sono cani che con la leishmaniosi siamo riusciti a negativizzare la cosa. Gli certo. ultimi esami che abbiamo fatto, molti cani che sono risultati positivi adesso risultano dubbi. Quindi già questa è una cosa che... Buona. Sindaco, è ancora in linea? Sì, senta, volevo qui. Chiederle, ma se noi volessimo dare un consiglio ad altri sindaci, no? Loro perché dovrebbero interessarsi così tanto di cani? Che cosa è stata la motivazione sua? Guardi, la motivazione è ovvia, l'amore, l'affetto per i nostri cani, per gli animali che erano nelle condizioni che ha descritto Giuseppe Fatone. A completamento di quello che ha detto benissimo la signora Celentano, devo aggiungere che tenere i cani in quelle condizioni deprecabili costava alla pubblica amministrazione, cioè ai cittadini, 14.000 euro al mese. Ma figurati. Per anni. Provate a fare una moltiplicazione e avrete la cifra che abbiamo speso dei soldi dei cittadini per tenere i cani nelle condizioni che avete descritto. Oggi risparmiate? Risparmiamo due terzi della somma. Fischia. Ma fantastico. Ecco, questo bravo, qui è che volevo arrivare. Allora, siete bravi tante volte, e quello che io volevo dire agli altri sindaci, a parte la motivazione etica, c'è anche quella economica, cioè è più sostenibile. Infatti, un canile dove c'è cura, dove c'è attenzione. Nel momento in cui noi avremo il nuovo canile, il rifugio, non avremo più quella specie di carcerazione per animali, ma avremo un posto di passaggio dove i cani saranno curati nel caso abbiano questa necessità e poi saranno rimessi sul territorio con le adozioni. Ma io sono anche un fautore del cane di quartiere, sì, se mi passate sì. l'espressione. Quindi anche il randagismo va sicuramente combattuto, però i cani vanno rimessi nel territorio. Io sposo la stessa opinione. Poi un'altra cosa, sindaco, che noi tempo fa abbiamo letto una notizia che in America, per esempio, già fanno, che alcune città hanno deciso di non far vendere ai negozianti i cani di razza, perché uno eventualmente li va a prendere direttamente all'allevamento, ma alcuni negozi si affiancavano ai canili per far vedere dei cani da adottare, ovviamente gratis alle persone, tanto poi vuol dire loro il negozio guadagna vendendo la pappa, vendendo i collari, vendendo le cucce. Quindi eventualmente anche iniziare a creare una sorta di collaborazione, una rete di collaborazione anche con i negozi di animali, di articoli per animali. È un'idea eccellente, anche se devo aggiungere che per le adozioni non abbiamo mai avuto problemi. Adesso, superata questa criticità di carattere sanitario che il dottor Buttiglione ha descritto, io sono convinto che riprenderanno le adozioni in maniera massiccia. Quindi l'obiettivo nostro è arrivare a 70-80 cani per avere quindi la possibilità di gestirli al meglio. Bene. Siamo felicissimi per allora, voi. In caso di donazioni, Giuseppe, pagina Facebook come si chiama? La pagina Facebook è Dalla parte di Floppy. Dalla parte di Floppy, per farsi un giro e vedere le magnifiche foto e fare donazioni. E aiutare. Allora, io ringrazio Giuseppe Fatone, ringrazio il dottor Michele Buttiglione, veterinario ASL, e il sindaco Francesco Metta di Cerignola. Grazie, grazie, un abbraccio forte da tutti noi. Posso dire una cosa, un'ultima cosa? Certo. Allora, prima volevo ringraziare una persona che purtroppo non è stata citata, ma perché comunque non ama essere in prima linea quando si tratta di queste cose, che è praticamente la presidentessa dell'associazione come si chiama? Chiara Valentino. Chiara Valentino, allora bellissima. Grazie, un abbraccio forte anche a Chiara Valentino per tutto quello che ha fatto e continuate così, grazie. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E il mondo dalla prospettiva degli animali in genere. Anche noi siamo animali, quindi anche dalla nostra siamo anche noi animali, bravissimi. Siamo anche noi animali. Adesso io ho trovato una cosa che mi è piaciuta tanto, perché a me piacerebbe tanto intervistare anche le celebrities internazionali, avere i numeri di telefono, Guido, no? Se riuscissimo a avere il numero di telefono, per esempio, di Brad Pitt, chiedergli se ama i cani. A caso. Ma che ci importa di Brad Pitt? vabbè, però ho trovato invece, ho letto un articolo di Drew Barrymore, che tutti conoscerete. Intanto era la bambina di E.T. La bimbina piccina di E.T. Ma certo. Poi adesso da grande è anche produttrice oltre che attrice. Ed è prodotto le Charlie's Angels, dove lei è una delle protagoniste. La bionda è la castana, sì, è castano chiara. Vabbè, comunque, Drew Barrymore, sentite che cosa dice dei cani. Gli animali per me sono stati un rito di passaggio. Mi hanno dato un senso di umiltà e un obiettivo. Mi hanno insegnato la gentilezza e la mancanza di crudeltà. Non ho cuore di essere rude, cattiva, crudele e scortese con nessuno al mondo o di abbandonare un animale. Cioè, fantastica. Bravissima. Fantastica, perché poi lei scrive anche che le sono stati molto vicini nel momento, per esempio, difficile della sua vita, di pochissimo tempo fa, perché si è separata da suo marito, e sembra proprio che i suoi cani, la vicinanza dei suoi cani, le hanno dato proprio la forza ogni giorno di andare avanti, di staccare la testa, di... Ma è bello questa sua chiave di lettura, un rito di passaggio, no? Ho usato questa parola. Sai che noi spesso diciamo la relazione con l'animale è una soglia attraversata la quale non sei più la stessa persona. Sì, è vero. Non sei più la stessa persona di prima. Interessante. Parliamo di cose pratiche adesso. Andiamo al pratico. Siamo Primavera. In linea con la nostra vet Barbara. Vet. La nostra amata vet Barbara Gallicchio. Barbara, ci sei? Ciao Barbara. Ciao Barbara. Allora, siamo in primavera e quindi qui ci sono una serie di domande che ci fanno gli ascoltatori, no? Allora, i cani perdono il pelo, perché perdono il pelo? Cosa bisogna fare per i cani che in primavera perdono il pelo? Il vizio. Quindi, tu non perdi né pelo né vizio. Sai che Barbara è anche comportamentalista, quindi... Sì, certo. E poi Barbara, come ci si deve comportare con tutte la varia, come si dice, le cure che bisogna fare contro le punture di zanzara, per la filaria, per la leishmaniosi, se bisogna fare prima un esame del sangue? Ci illustri un po' quali sono le cose che un bravo padrone di cane deve fare adesso? Sì, allora, prima di tutto, per avere un cane che non perde il pelo, bisogna prendere un cane che non perde il pelo. E giustamente, tu dici, no? Perché se la gente si prende un Alaska Malamute e poi dice, perde il pelo, insomma... Cosa pretendi? Te la sei cercata, insomma. Con i nordici c'è proprio un dramma, no? Quando viene la muta, con il pelo caprino esterno e la lana di sottopelo che loro hanno per forza, no? Quindi... quel tipo di pelo è un disastro, ma non solo nei nordici, anche nel pastore tedesco, no? Perché abbiamo sempre pelo di copertura e lana di sottopelo che viene persa tutta, e siccome noi non abbiamo, tra l'altro, il tutto freddo, tutto caldo, come era una volta, abbiamo invece freddo fuori, caldo dentro, perché abbiamo riscaldamento durante l'inverno, caldo fuori ma fresco dentro, perché abbiamo magari i climatizzatori d'estate, questi cani non fanno nemmeno una muta unica, ma fanno una mezza muta e poi magari buttano del pelo nuovo e poi invece lo continuano a perdere, e quindi purtroppo insomma uno ci deve un po' ragionare su queste cose. Vabbè, sì, allora, certo. prima di adottare il cane. E quando invece uno vuole un cane che non perde il pelo? Prende spazzola. Un cane a pelo lanoso, no, prende un cane a pelo lanoso, quelli che hanno baffi, barba, eccetera, dove il pelo fa tutti i nodi, ma non va in giro neanche mezzo pelo. Vedi? Quindi si tratta di spazzolare. Il barbone, per esempio, è un cane che non perde assolutamente il pelo. Sì. E non è nemmeno seborroico, non è un cane che ha forfora, per cui è anche poco allergizzante. Oppure possono prendere, i miei cani in generale, per esempio i bobtail o i bearded collie, quelli non perdono assolutamente il pelo. Oppure possono prendere un cane a pelo raso, ma non corto, perché corto te lo trovi dappertutto, anche nel panino. Ti si infila ovunque. Tipo ovunque. Boxer, tipo alano, quelli lì? Tipo i levrieri, non so, per esempio i levrieri arabi o il galgo, quel tipo di cane, il piccolo levriero, ma anche quelli proprio, per esempio, il bassotto a pelo corto ha proprio il pelo raso. Anche se si chiama pelo corto, in realtà il pelo è raso. Quelli lì, ecco, proprio non te lo perdi, ma ne perdono, ma è talmente corto che non è un problema, e basta un guanto per tenerlo in ordine. Non possiamo rasare i cani del tipo Spitz col pelo doppio, cioè il pastore tedesco proprio non lo possiamo rasare. Non lo possiamo tosare. No, è proprio un disastro, poverino. Così non, come non anche è, la aschi, pelle non è cani nordici. No, non sono adatti proprio, la pelle non può essere esposta in quel modo, non è nella loro natura. Si può facilitare la muta, cioè accorciarla con due o tre bagni, proprio bagni con l'acqua calda di pulizia, in modo che dilati i pori e la lanetta, il sottopelo viene giù più facilmente. Nei primi due o tre giorni dopo il bagno fanno proprio, si spogliano, ecco, allora magari ne fai due o tre e poi ti tieni. No, perché questa è la cosa, no, che dicono molti dei proprietari di Husky e di Alaskan Malamute, dicono, ma con tutto quel pelo adesso d'estate varrà caldo, quindi io lo devo tosare, non mi importa cosa dicono i veterinari, qui fanno male. Male, perché il cane non è adatto, quel cane, a essere tosato. Cosa potrebbe accadere? Certo, deve essere slanato. Deve essere slanato. Cioè, la natura fa il suo corso. Viene il caldo, perde la lana. Va consentito. Quindi lo devi slanare in modo che il pelo sia, come dire, più leggero, no? E l'aria possa circolare di più. Ma qui finisce. Ricordo una volta un husky che si era preso una bella ustione proprio per questo motivo. Ci sono altre conseguenze possono... No, ma proprio che la pelle non è adatta a stare, ad essere rasata, quel tipo di pelle non va bene per la condizione. Inoltre i cani non sudano dalla pelle, quindi non è che ho il vantaggio se gli tolgo il pelo allora suda liberamente. No, i cani non sudano dalla pelle. Certo. Sudano dalla lingua, è vero? Questa bocca. È una leggenda. Sudano, si raffreddano solo attraverso la ventilazione, non è che sudano, non è che possono trasformare il calore in acqua come facciamo noi, no? Certo. Cioè noi lo sudiamo via, loro non possono, perché non ce li hanno 2 metri quadrati di pelle rivestiti di ghiandole sudorite. Quindi proprio anche se lo raso, non è che io ho risolto. Che cosa ho risolto rasandolo? Nulla. Ho messo la pelle esposta al caldo. Ah, certo. Che potrebbe pure non essere un vantaggio, no? Perché il pelo in certo modo è anche protettivo. Quindi è chiaro che lo devo slanare, perché se quello è imbottito di lana è fatto per stare a meno 30. Che cosa possiamo, cos'altro possiamo ricordare qui per la primavera? Per sempre per questo problema del caldo. Non lasciate i cani nelle macchine. Non lasciate i cani nelle macchine, brava, assolutamente, neanche con i finestrini aperti, perché diventa una camera a gas, anche se perché basta stare. Soprattutto se non hanno il muso lungo. Perché il muso lungo facilita la iperventilazione, il muso corto la impedisce. Eccoci. Cioè non è efficiente. Filaria? Filaria la Smania? Filaria, allora. La filaria un po' su tutto il territorio, ma soprattutto qui da noi nel nord, lungo i fiumi del nord, è veramente un problema, ormai si è diffusa da tutte le parti, e tutta la stagione devono essere protetti. Ci sono una quantità di prodotti, la maggior parte hanno una somministrazione mensile in forma di compressa. Sì, tu sconsigli la puntura, quella che invece vale tutta l'estate, vero? Ma io non le amo molto queste dosi singole, tutte concentrate, però devo dire che tanti colleghi sono contenti. Io preferisco ancora usare le compresse o nei cani più piccoli le fialette. Ci sono delle fialette, di cui non possiamo fare il nome commerciale, che si mettono alla base del collo come quelli contro pulci e zecche. Ah, sì? E che fanno anche la filaga. Nei cagnolini molto piccoli può essere una soluzione molto al posto buona, della pila. Come nel gatto. E, sì. E invece la leishmania? Ecco, la leishmania è un grosso problema, perché mentre la filaria noi la proteggiamo al 100% con questi prodotti, cioè non la prendono mai, quando prendono questi prodotti l'unica accortezza che dobbiamo avere è assicurarci che non sputino la compressa, perché se sputano la compressa hai perso tutto il mese, no? Invece con la leishmania noi non ce l'abbiamo un prodotto che sia efficace al 100%, ma nemmeno lontanamente ce l'abbiamo. D'altronde è una malattia simile alla malaria. E la malaria molto simile, e la malaria, guardate, ci sono dei centri di malattie tropicali che studiano solo la malaria da 50 anni, non sono riusciti a produrre uno straccio di vaccino decente, no? Ma, e quindi che cosa si fa? Ma c'è poi la possibilità, allora, di curarla? La prima, sì, però noi non riusciamo a sterilizzare, non riusciamo a, diciamo, a guarirli veramente. Noi riusciamo a mandare indietro i sintomi sempre che vada tutto bene, che l'animale risponda alla terapia, ma l'animale rimane, come dire, positivo, con le leishmanie quiescenti addosso. E è molto facile che magari dopo un anno, magari dopo due anni, magari anche prima, torni fuori la malattia e che si debba curare di nuovo sempre che vada tutto bene. Poi molti cani se la cavano, ma un terzo dei cani che sono a rischio sul territorio si ammala. Diciamo che forse la cosa che aiuta un po' è usare anche con lui. Io per esempio prendo gli spray, quelli per bambini o quelli naturali, il più neutri possibili, me lo spruzzo in mano e poi li accarezzo in modo da proteggerli come noi, no? Un antirepellente per le punture di zanzare. Allora, l'insetto repellente è la cosa più importante in assoluto. Ah. Proprio il più importante in assoluto, perché più tengo lontano gli insetti dal cane, meno è probabile che possa contaminarsi. Una volta che poi si è contagiato, purtroppo, come abbiamo visto, non è così facile. Perciò ci sono vari tipi di insetto repellenti, alcuni anche molto aggressivi, che si useranno solo quando l'ambiente proprio lo richiede. Sì. E il fattore di maggior protezione è far dormire gli animali dentro casa e non fuori, nemmeno se abbiamo un bel giardino, nemmeno se abbiamo un bel terrazzo. Se la zona è veramente a rischio, cioè sulla costa, soprattutto nella parte più calda verso sud o nelle isole, il cane deve dormire in casa, e in casa mettiamo i prodotti, i fornelletti. Ah, fantastico. Bene, grazie Barbara, come grazie solito Barbara sei Galizia. Stata precisissima, chiarissima, gentilissima. Grazie a voi. A buona presto. Giornata, ciao Barbara. Una pausa. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh. Il mondo dalla prospettiva empirica. Esatto. Adesso è tutto tuo, il momento di Mara di Noia che ci dà una ricetta che non vedo l'ora di provare, per esempio per noi, per me, per te, per i nostri cani. Per tutta la famiglia, va bene. Oh, mi raccomando, Mara. Ricette per tutta la famiglia. Però dobbiamo mangiarla tutti questa cosa. Sì, siete obbligati a provarla. Sentiamo. Allora, è una ricetta semplice, come tutte le ricette che piacciono a me, e è adatta a tutti, quindi bambini, anziani, convalescenti, chi sta bene, chi fa sport, cani, gatti. Ok. I gatti infatti poi bisogna fare una parentesi. Una parentesi. Okay. Allora, vi occorrono 150 grammi di lenticchie lessate, due gambi di sedano, una mela verde piccola, una carota, 60 grammi di olive verdi, poi facciamo una precisazione sulle olive, 50 grammi di miglio decorticato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, una manciata di mandorle tostate, prezzemolo e succo di un lime, qualche goccia di succo di lime. Poi lime, ovviamente, non limone. Lo so, limone, è quello verde. Non è il limone. O il limone. Appunto. Ah, il limone va bene anche. Sì, va bene. Diciamo che in questo modo viene più profumata, ma è gusto mio. Poi ognuno la può cambiare. La cosa fondamentale di queste ricette è che in linea di massima contengono sempre un legume, un cereale, in questo caso abbiamo le lenticchie e il miglio, dei grassi di buona qualità, quindi olio extravergine di oliva e lo usiamo a crudo, dei grassi insaturi che ci vengono, diciamo, forniti dalla frutta secca, quindi in questo caso le mandorle tostate o qualsiasi altro tipo di frutta secca, delle verdure verdi, il prezzemolo o una carota come verdura che si può utilizzare anche cruda, un condimento, un alimento fermentato. Come dicevamo l'altra volta, uno dei 7 così magici ingredienti di questa alimentazione vegetale naturale sono gli alimenti fermentati, che già dall'antichità vengono utilizzati per le loro proprietà nutritive molto ricche di vitamine del gruppo B, di sali minerali. Quindi fermentato tipo il miso era? Il miso, diciamo, rimanendo nella nostra tradizione mediterranea, abbiamo le olive, tutti i tipi di olive. Noi pugliesi ne abbiamo una grande... Ma che vuol dire le olive? Le olive vengono messe in salamoia perché da crude non puoi mangiarle. Ah, ecco. E quindi vengono messe in salamoia in questa miscela di acqua e sale che inizia una fermentazione che è una sorta di cottura. Per cui l'oliva cambia struttura, la fermentazione attiva dei processi che mettono in atto dei processi vitaminici importanti, tipo le vitamine aumentano anche di 500 volte con questa fermentazione. Quindi fa benissimo mangiare le olive? Fa benissimo mangiare le olive. Olive da una vita. Noi consideriamo le olive semplicemente degli antipastini, cibo vero, cioè sono fantastico. Un alimento vero. Ma io mi ammazzo d'olive e dopo un po' dicevo, secondo me sto esagerando e mi fermo, perché se fosse per me... No, poi contengono grassi, tra virgolette, buoni, sono grassi insaturi, quindi sono liquidi, non faranno mai placche i grassi di origine vegetale, cosa che invece fanno i grassi di origine animale. Quando guardate un cuore di bovino è circondato da grasso duro, bianco, che sembra plastica, e quello è quello che fa all'interno del nostro corpo. Ecco. Il grasso di origine vegetale, anche quello diciamo più strong possibile, non farà mai una placca perché non ha una struttura tale per farla. Quindi nell'alimentazione vegetale, quando io dico è una ricetta leggera, nutriente ma leggera, è proprio così. Quindi tutte le caratteristiche nutrizionali di cui gli esseri viventi hanno bisogno sono contenute in questa ricetta, così come altre con delle varianti. Senti, scusa, ma come si assembla tutto? Si assembla lessando il miglio nel triplo di acqua. Quindi se noi abbiamo 50 grammi di miglio decorticato, useremo 150 grammi di acqua o 3 volte la quantità, molto più semplicemente. Poi, una volta lessato il miglio? Lessato il miglio, noi abbiamo già le nostre lenticchie che abbiamo già lessate in precedenza. Possiamo saltare la carota in modo tale che sia meno croccante, ma è buona anche la croccantezza, così come possiamo aggiungere alla fine il sedano o cuocerlo. Sono ricette molto libere. Tagliamo la mela alla fine e mescoliamo tutto insieme. Ma la mela la fai grattugiata? La mela la fai a pezzetti piccoli. A pezzetti piccoli, compresa la buccia? Se è biologica, sì. Possiamo utilizzare anche la buccia, la mela ha un'infinità. E quindi tu mischi poi tutto assieme? Mischi tutto, cambiamo, diciamo, il contenitore in cui serviamo questa ricetta. Per noi questa ricetta è bellissima servita in un finger food, quindi molto bella da vedere, molto sfiziosa, molto così un po' anche alla moda. Per il nostro cane useremo la ciotola, ma siamo in grado di servire questo pasto per tutti, senza timore che i nostri cani stiano male o che abbiano chissà quali tipi di scompensi. Allora, a un certo punto tu mi hai parlato di una ricerca, di uno studio fatto all'Università di Pisa. Allora, la premessa è che all'estero sono molto più avanti di noi su questo tipo di ricerche, quindi in Germania i lavori sono tantissimi, così come gli studi americani. Sì. Come in Italia uno dei primi lavori è sulla comparazione tra alimentazione a base carne e alimentazione a base vegetale, è dell'Università di Pisa. Come spesso succede nei lavori in medicina veterinaria, diciamo che aprono delle strade strade nuove. L'Università di Pisa è sempre avanti a noi. Complimenti. Meno male. E quindi questo studio che io ho consultato, ho avuto la fortuna di consultare nel 2012-2013, ci dice che gruppi di cani selezionati in modo omogeneo, in modo tale che poi lo studio fosse statisticamente significativo, così come i suoi risultati, cani alimentati con alimentazione a base carne o un'alimentazione a base vegetale non hanno alla fine dello studio nessuna differenza dal punto di vista del loro stato di salute, che viene misurato come? Attraverso la visita clinica, esami strumentali, esami del sangue, così come anche le valutazioni comportamentali. Quindi questo è stato uno dei primi lavori a cui noi facciamo riferimento. Ce ne sono altri, ma questo è stato uno dei primi. L'impressione che tu hai avuto, quindi, praticamente facendo queste cose qua, mi dicevi anche i tuoi colleghi, per via empirica, no? Che ci diceva prima. Esatto, quindi prima, cioè basandoti sull'esperienza, sulla clinica, e che i cani che vengono alimentati in questo modo stanno bene. E questo non solo stanno bene, ma quello che è poi, diciamo, la chiave della, diciamo, dell'alimentazione casalinga è la relazione con i nostri animali, che va anche migliorando, ad esempio con i cani che non stanno tanto bene, o nei cani anziani che perdono progressivamente l'appetito, non hanno voglia di mangiare. Il condividere un pasto, anche magari una volta ogni tanto, non necessariamente tutti i giorni, stringe la nostra relazione e ci permette di vivere delle cose belle con i nostri animali. Beh, fantastico. Io adesso io credo che preparerò una serie di ciotole anche per me e per te, invece che il finger plate, il finger food, facciamo tutte ciotole, tanto per essere tutti uguali. Facciamo solo attenzione a non dare troppe olive ai nostri animali, perché comunque contengono sale, quindi facciamo attenzione. Diciamo, l'accortezza è questa: prepariamo una base per la famiglia e poi facciamo le debite correzioni, che vuol dire stare indietro coi condimenti e col sale per i nostri animali, questo sempre. Però è una ricetta che si può condividere. Bene, fantastica. Allora Mara adesso appena potrà ci accompagnerà, e quindi faremo una ricetta ogni domenica se ci riusciamo, e ci abbiamo poi domenica prossima che è la festa della mamma e faremo tutta una puntata dedicata alla mamma, alle mamme, alla parte materna da parte dei cani, per esempio, l'istinto, non mica l'istinto. Vi ricordo la nostra mail: chiedimi se sono felice @radio24.it. Grazie Mara. Grazie a voi. Grazie Mara Di Noia. Grazie Rosita Celentano. Grazie Angelo Vaira. Noi ci vediamo domenica prossima. Restate su Radio 24. Buona però domenica. A domenica. Ciao.